figlia. Ciao Gio, vabbè. Che si dice? Che si dice? E cosa si dice? Niente in particolare. No, ho visto il video l'altro giorno, bello, bello. Bravo, bravo. Ok, ok. Il mio video, l'hai visto? Via, di lusso. Di lusso, di lusso. È tutto rientrato alla base. Hai fatto bene, questo è il 14, l'ho tutto tirato, non so se sto facendo bene, sono senza processore pure inserito, aspetta, così ecco il processore inserito, ecco. Sì, va bene. E così disinserito, cappa. Hai fatto bene, almeno ascolti, capito, l'HF. Sì, infatti. Stavo ascoltando i 20 metri. Ma quest'anno la propagazione è proprio lunga, Sì, ci sono dei momenti belli, veramente. Belli veramente. Nonostante che l'antenna che ho non è adatta, perché questo tipo che ho io è sorda per quelle da ascoltare certe frequenze. Ah, io già li ascolto, anche con questa già li ascolto, con le scamottaggi che ti ho fatto vedere nel video riesco a ascoltarli tutti, capito? Lo so, così sì, così va bene. No, a differenza della Turbo, la Turbo era eccezionale, tutti quanti sentiamo 9.10, 9.15, in 40, e dunque anche in 20 arrivavano fortissimo, per dire, no, mentre questa è sorda su quelle frequenze. No, con quella storia là riesco a tirarmi fuori tutti, capito? Tutti. Mentre prima no, perché appunto, come hai detto tu, sono sorde come tipologie di antenne. Appunto, non sono molto indicate. Vabbè, è anche normale, sia ben chiaro. Ma per dire, però con la Turbo io ascoltavo molto meglio. Però dipende da cosa mi devi fare, c'è di bello che con queste io QRM ne ho uno, chi c'ha la moto qua mi dicono cazzo sempre a 5, 6, 5, 7, boh, è allucinante, ma ci credo, se io metto la moto qua con la storia che c'è questo ripetitore di fronte, guai. Lo so. No, qui è sempre 5, 6 anche il QRM, ma visto così con i LED, con le barrette a LED, mentre invece in analogico diciamo che può essere 3 alle 5 così, l'ho già verificato. No, con questa no, con questa 1,5. Solo col 14 è sempre alto, ma è un difetto che c'ha questa radio, capito? Perché col 43 non me lo fa, a 1,5 massimo. È questa tipologia, capito, che fa così, ma attacco quella storia là e me lo abbasso a 1, capito? Anche qua. Poca spesa, molta resa. E allora che si dice? A piove subito giù. Abbassa il macchigain, becchino. Il macchigain, c'ho addirittura il processore disinserito, l'ho tirato troppo secondo me, porca miseria, un 14. Guarda, adesso c'è il processore inserito. Abbassa il macchigain. Guarda a vedere così, meglio va. No, alza un pelino. Allora aspetta, allora metto il processore, guarda un po', 1, 2, 3. Fa un passaggio più lungo, se no devi abbassare col processore appena appena. Il processore non abbassano, Natalia. Posso abbassare il MicGay o disinserire il processore. No, devi andare col processore, devi abbassare appena un pelino, però te lo dico io quando va bene. A chi vai la voce? Giara di va, già vanno lì la giara la voce. Allora, vediamo un po'. Guarda, si è migliorato. È sotto la I, l'ho messo sotto la I adesso. torni là, attaccava. Allora tengo il processore inserito, sotto la IE, ma chi è sotto la IE? Forse ho tirato troppo, E poi devi parlare a voce bassa, amici, se no va a strappare, capito? Comunque adesso la voce va bene. Ciao Giulio, buonasera, ben sentito. Ciao, ciao Natali. Infatti io lo volevo dire, perché inizialmente è partito bene, poi è cominciato a essere un pochino complessa la modulazione, però io avevo pensato anche forse è anche troppo vicino al microfono. Se si allontanassi un pochino magari ho pensato che andava meglio. Comunque adesso va bene lui. Perfetto, se non me lo dite infatti non lo so. Ehi, mi accudendo di leva Tatalì. Mi sa di sì. Caro lei. Stanotte piove, anzi pioverà anche da presto, penso, e forse anche domani mattina. Vabbè, e tu Natali, tutto bene con la storia? Sì, tutto bene, quel che finisce bene. Vabbè, mi mancava un burguiso, vabbè, mancava. Non bastava primo, burguiso mi mancava. Che cosa giù? Che ti hanno sovramodulato la 50. Quando si mette a parlare, non lo so, qui è disoccupabile, dice una favida furuetta, però è dai, c'è più forse di me. Perché va la cosa amplificata, dai, auguria. No, stavo dicendo, quelli di su, io intendevo, quelli di su, tutto risolto. Eia, eia. Ma com'è? Davvero sì. Vabbè, dai. Avanti, cosa stai combinando? Stai regolando altre apparecchiature? No, niente. Mi tuonando sta. Si sente tuonare. Oh, iaia. No, oggi ci sono stato poco in terrazzo. Quei circuitino lì, ce lo devo sistemare dentro una scatolina. Hai visto che miracoli che fanno certe cose, Giulio? Bello, sì. Bella cosa, lui. Vabbè, dai. Stavo dicendo, tornando al discorso QRM, che me lo segno un pochino più alto, ma devo considerare che l'antenna vuole più in alto, perché se è a livello basso, a livello quasi del tetto, allora la QRM si sente, questo, perlomeno questo tipo di antenna. Se fosse l'altra magari sarebbe ancora peggio, più alta è e più QRM si sente. Sì, ma io ce l'ho bassa, da quando l'ho abbassata, io ho tirato via quel dipolo, non l'ho più alzata, sempre così. Vabbè, ma tu hai all'altezza della casa e tu hai una grandissima posizione lì, per cui non è paragonabile alla zona mia, insomma, in poche parole. Avanti Natali. A Natali non è tutto quello mattarello, è tutto mi Luca. Aspetta, ti mando la foto di quello che ho assemblato. Questo serve proprio per il QRM. Aspetta, ti mando la foto. Ok. Ma sta tornando? Devo chiedere a Luca dove si possono buscare delle scatolette, perché io ho fatto un circuito di un oscillofono e ce lo voglio schiaffare dentro una scatoletta, capito Luca? Ho capito. Ascolta, con la frusta nera non l'avevi ancora provata in iniziazione, no? Per sapere, insomma, ecco, come ti avevo chiesto prima. No, ma ti sto dicendo che va bene, perché mi telefona Marcolino e ti dice tutto. Qua non ti posso dire nulla io, già te lo spiega bene lui. Ho capito. Stavo dicendo, ma sta arrivando la pioggia, ma sta già tornando o no? Io ancora non li sento. Ma io non ne sento la verità. Ancora qua no. Goditi il tuo momento con la sua croccante copertura. Se dovesse fare qualche tuono, già te lo dico. Ok. Duca. Sei uscito Luca? Luca, sei spesso. Luca, non sei uscito? Aspetta che sto cercando un video. Sì. Natalia, hai presente quei gommini, quelle guarnizioni che ci sono sopra il tettuccio della C3? Hai presente? Quei gommini che ci sono sul tettuccio? Sul tetto della C3, quella guarnizione che c'è da una parte e dall'altra, a destra e a sinistra, tutta lunga, dalla parte di dietro fino alla parte di davanti, è una roba di gomma. Beh, se l'ha andata a chiedere quanto costano, perché una mi si è rotta, no? Hai detto buttali, due bestie di gomma, una vergogna, 115 euro. E non ti stupire giù, la macchina è francese. Adesso, ma io non le metto, oh mamma, come sogno, lascio stare quella e lo faccio altro che metto un po' di adesivo e va bene lo stesso, tanto non serve a niente, che sia nuovo o che sia quella che è originale della casa, non va bene sempre. La incollo, già ce l'ho, il massi ci ha dato, per cui no, se basterà con 115 euro per comprare una guarnizione di gomma, ma va per dire, questi sono ladri, boh. Anche tu hai ragione, sono un po' spropositati con questi prezzi, però stai attento che non serva, sai, che ti si marcisca la carrozzeria, mio giù. No, fa niente, perché l'acqua entrerebbe lo stesso. E basta, non è niente di particolare, capito? Però mi occorre per quando metto il portabagagli sopra, capito? Perché la stampa del portabagagli appoggia proprio lì, ed è per quello che la voglio ricompletare, ma non prendo 115 euro, ma pure, capito, questa mi pongo una gomma, ma tu immagina, c'è una gomma da 3-4 cm larga, non ci sono 4 cm, è lunga, cosa può essere lunga? 1,70 m, una cosa così, 1,60 m, 1,70 m, 115 euro, ma vai, non c'è proporzione, dai, il valore del prezzo con quello che costa. Già lo so, purtroppo, cosa vuoi che ti dica, i prezzi di queste cose qui costano mala sorte, sono esusi con questi prezzi. Comunque ho risolto il problema del parcheggio giù. Hai fatto l'abbonamento lì al mercato? E dopo penosa malattia sono riuscito a rintracciare il guardiano lì, mi sono fatto l'abbonamento e la macchina è già dentro. Hai fatto bene, così almeno non hai problemi di parcheggio lì, perché lì già lo so, già conosco bene la zona e dunque lo so che è possibile parcheggiare. Io lo vedo, adesso cresco io, non mi parlo davvero. Come si paga? Mensilmente si paga, o abbonamento annuale, com'è? No, al mese si paga giù. Va bene così, dai. E magari non è nemmeno così costoso. E 60 euro al mese si paga. 60 euro al mese, insomma. Vabbè, lì c'è anche l'assicurazione, c'è tutto, eh. In un garage così, in pubblico, c'è anche l'assicurazione compresa, eh. Succede qualcosa e te la pagano. Sì, andrà bene Meda, ma sono contento così, almeno non ho problemi. Sì, hai fatto benissimo, intanto 60 euro non sono niente oggi, una volta al mese già si possono pagare tranquillamente. Sì, almeno sono tranquillo, non devi stare a 2 euro gli rendi, camminendi, a chi si tira a buon lontano, mi tocca stare camminendi, senza casa, a piedi, almeno ti eviti. Infatti, no, e poi ce l'hai sotto casa, perché va benissimo così, è una grandissima comodità, per te è una grandissima comodità quello, te l'avevo detto già da tempo fa, perché non ti fai l'abbonamento lì, almeno risolvi quel problema lì del parcheggio. Giù, qua ti ho mandato quel video, capito? Sono forti i cinesi, sono forti. Certo che sì. Ce l'ho giù. Il telefono ce l'ho giù, no? Non ce l'ho qua, portata di mano, dopo lo guardo. Oh, Luca! Ehi, sai, quelle scatoline le trovi su eBay, le trovi su Amazon, dappertutto le trovi, basta che metti la grandezza, ma ce li ha anche Bricoman, capito? A seconda della grandezza che ti serve. Per mettere un circuito di un oscillofono, Emmy, ho fatto questo oscillofono io, per attaccarlo al tasto, e praticamente c'è il circuito nudo, senza la scatola, no? Te l'avrei fatto con la cosa, ma ho finito il PLA, ho finito il filamento della 3D, se no... guarda su Amazon che le trovi, costa anche una cazzata, metti la misura, ci sono di tutte le misure. E cosa devo scrivere? Scatole per circuiti elettrici. Elettronica più che altro, che misura ti serve? Che te la cerco. Devo prendere l'oscillofono, adesso non ce l'ho qua, bisogna che l'usecchio andi là giù buccio e misuro il circuito. Lo guardo io, al limite non c'è problema. Cosa devo scrivere? Scatole per circuiti. Box in plastica anche puoi scrivere. Scrivo così e vediamo. Non bisogna. Così me la faccio filmare e lo metto come si deve. Intanto mi serve un po'. Come non ci sono scatolette adatte per poter fare un circuitino dentro a un Natale. Ci sono varie misure, varie tipi. Non ci ho guardato, la verità, devo prendere la misura del circuito, me la scrivo, così vado a Bricoman e guardo prima, se no me la faccio arrivare da Amazon, come ha detto Luca, capito? Se non ci sono da Bricoman, me lo faccio arrivare da Amazon, non c'è problema. No, ma vai nel comparto elettricità, lì da Bricoman ce ne sono di vari tipi, sicuramente trovi quello che ti va bene, quello che va bene per te, per quello che devi fare. Ce ne sono tantissimi tipi, ti conviene fare così. E così faremo, tanto adesso problemi di parcheggio non aggio, e quindi posso prendere la macchina quando mi pare e piace. Appunto, quello è interessante. Fai così, fai, ti fa una scappatina, lì il parcheggio già lo trovi, quando ritorni a casa non c'è problema, visto che è l'abbonamento, e va bene così. E infatti, mi hanno dato un tesserino, no? Lo metto io e apre la situazione per farti entrare e così per uscire devi appoggiare questo tesserino qua e ti apre la sbarra. Sì, beh certo, è aperto 24 ore su 24, vero? Sì, ho capito, dunque c'è anche il custode, c'è tutto lì. E due o tre erano quelli che li ha detti lì oggi. Mi hanno telefonato loro, so che è andato a Punto Sicuro, compreso, era ancora già Uddu, e ho fatto l'abbonamento, sino io a Marcello, i noghi, e rubrivo non andare a pigliarmi la macchina, ma temendo a pigliarmi la macchina, perché dopo non trovi il parcheggio. Lo so che è così, ci ha lavorato qualche settimana anche mio fratello, perché lui era detto lì in via dei Mille, nell'altro appartamento in via dei Mille, no? Di fronte all'ospedale civile. E poi però ha fatto anche qualche settimana lì, perché è tutta una gestione, capite? Io ho capito. Se lui aveva in pensione, no? Problemi di articolazioni e gambe, braccia, insomma un macello. Io già ne so qualcosa io di articolazioni, che c'è una gamba messa male veramente. Adesso facciamo questa roba qui e poi vado, mi faccio la visita e vediamo se riesco a farmi operare. Tanto lui ha avuto già due operazioni, uno al femore, gli hanno fatto già un annetto fa, e poi alla spalla, e adesso dovrebbe fare anche l'altra parte della spalla, perché se no non può sollevare il braccio, capite? Oh, Luca, siamo messi bene già. Luca! Ti sto mandando qualcosa, Natalia, con la scatola. Ehi, capo, adesso accendo il computer così me la guardo. Vabbè, dai, divertitevi, dai, io vado a fare merenda, ci sentiamo, non lo so, forse più tardi. Alle prossime comunque. Ciao, Natalia, ci sentiremo. Infatti quando eri ieri, mi sembrava di ieri, ti ho anche chiamato di mattina, però, perché volevo sapere se avrebbe risolto, ma adesso mi ha detto di sì. Anche a Luca avevo chiamato, ma non avevo riputo né uno né l'altro. Vabbè, dai, ciao Luca, ciao Natalino, alle prossime, dai, ci sentiamo, ciao, vado a fare merenda. Vada, alle prossime. Ciao Giulio, ciao, e anche intanto qua sto sempre sistemando, mettendo a posto. È arrivata Natalina? L'ho acceso adesso il computer. Custodia Milani. Quella lì va, andrà bene. Adesso guardo. Eccola qua, I385. Si verrà in peso a casa, mi goccia più di un trasporto di Rugose. 5 euro di spedizione, te l'ho detto, costava più il trasporto della cosa. Ma io penso che vada bene per quel circuito mio. Ma ce ne sono centinaia di modelli diversi, bianchi, neri, capito? Guardatele un po', ce n'è anche una 5,53 euro spedizione gratuita, dipende dalla grandezza, Natali, soprattutto. Più grande la metto, così ci posso mettere anche l'altoparlante dentro. Come com'è, soprattutto la radio. Giulio, stavi parlando insieme a Natalino, però Natalino ti passa qua naturalmente e non si è capito, l'ultimo pezzettino proprio. Ah, ho capito, no, ho più dato il rapporto segnale radio, no? 9:10 ho detto quasi per Natalino e fondo scala per te. Ho detto com'è per me, da entrambi, sia radio che qua, soprattutto radio. Qua da me c'è 9:20, bella radio, bella questa radio, e 9:20 di segnale, non so se questo apparecchio però è 14, non so se è tarato giusto, devo commutare, aspetta che commuta a 4:30. Ma a me 9:10 sta arrivando, come al solito, è giusto. Ok, va bene, dai. Va bene, massissima potenza. Molto molto bene, d'accordo, ci sentiamo allora. Luca, dopo quando attacchi dimmi com'è, e poi mi sposto, dai. 9:25, sì, 9:25 a picchi di 9:30. Ok, allora va bene. Sul 43? Sì, sul 43. Sul 43. Ok, va bene, dai. Sto parlando anche sottovoce. Ci sentiamo, ciao, grazie, ci sentiamo, dai. Vado, chiudo, ciao. Andrà bene, Vera. Ciao Giù, adesso metti, sto mandando un'altra, Natalia, guardati quest'altra, progetto elettronica, ci sono 7 fotografie, vedi un po' se ti va bene. Eia, devo pigliare la misura del, e i risultati migliorano del coso, del, la comunicazione. Grazie. Del circuito, mi per vedere se ci sta dentro. Ma scusa, l'ha fatto tutto il circuito, non sai approssimativamente quanto è grande? 5x10, 10x10, 20x20? No, te lo posso dire. Bisogna pigliare un metro e a misura, va a sapere la misura esatta. È piccolino, non è assai mano come il circuito. Però se riesco a metterci anche l'altoparlante dentro, è meglio, capito? È un altoparlante da 8 ohm, ma anche va bene, piccolo, non c'è bisogno di roba grossa. Chissà, mi pare più manna, mi pare, gli andia meglio, la 4,76, forse va meglio questa. Andiamo in diretta. Ma tu guardati bene le misure, questa è 98x67x36, guardati bene le misure che ti servono. Infatti Bisurumetru e Abaidu. Cosa ci dice? Che cosa abbiamo compreso? Se riesco a infilarci tutto, se no me la piglio più grande, capito? In modo che ci metto anche l'altoparlante. È assolutamente a favore della Romacu, del figlio. E tutti in un lugo. È impossibile che possa avere aggredito verso. Faccio i buchi per le cose, per le regolazioni, che ci sono due potenziometri. La migliore fidanzata. Guardate, sta mandando la foto con dove c'è la fotografia delle misure. Aspetta, invia, ok. Guarda, apriva la foto e ti fa vedere le misure. Oh yeah. Il temporale si avvicina. Fate il movimento, il temporale buro. Andiamo qui, andiamo. Aspetta che cazzo che mi sono dimenticato di mettere il prezzo di quel rosmetro. Aspetta che subito, se no mi dicono. Allora, HP 1000, 70 euro spedito, forza. Avevo mandata sì la foto di quell'accordatore. Mi aspetta un attimo che devo guardare la situazione qua, che è arrivata la data degli esami. Per molte persone sono disturbi. Hai detto, vedi? Un rimedio. Ecco qua. Igienia Pro. Te lo dico subito, dice, vedi dove sono io. Igienia Pro, in tutte le farmacie. Continui fastidi alla schiena o al collo sono spesso causati dai nervi. Provate Mavoze. Lo speciale complesso di micronutrienti favorisce un allora, aspetta un attimo. Mi sento di nuovo. Il 21 alle 3 lo devo fare. Ore 15. A me, non sa l'anno. Come? La data. 21/11/2022, alle ore 15. Allora, che bagretta, usci. Sì, signore. Manco tanti nomi, vabbè, non è più nessuno, per carità. E cosa ti credi che non mi sto qua? Io entro qua, mi lo digridi. Ma vedrai che con la gente che c'è qua, c'è nessuno. Se Dio gli dà che non, la manca gli dà fa vedere un gatto ed uno. Qua c'è nei 40 metri, un manzano, o Garcia Giura, per esempio, niente. Per carità, no, che è tutto murendi. Mentre al nord Italia, centro-sud, eccetera, è pieno di cibi. Adesso qua. Va bene, piglia. Ma Luca, tu perché non l'hai fatto? Ma non mi interessa. A che mi ha dato io abbandono tutto, capito, Natalia? Abbandono tutto, che no, non ho più l'entusiasmo. Un attimo che me lo stampo questo, e le due cavole è lungo su una stampata. Ah, in ora Roma. Si collega in automatico e lo stampo direttamente perché c'è il wifi, la stampante. Anche la mia è wifi, però ho messo la schermata qua e non esce la fare per stampare. Fai condividi, prova a fare così, io faccio condividi, poi vado giù, stampante, aspetto un secondo che appare la pagina e stampo. Ehi, capa capa, chi è avanti? Buonasera. Ma non esce manco condividi qua. Qui è stato tracciato. Mi sento Natalia. Cosa? Mi sento? Ehi. Siete qui, però lungo il percorso fino ad arrivare in fondo. La strada che è un altro sbocco possibile per il killer, ce ne sono altre. Ciao Natalino, pace bene. Ciao carissimo. Allora, tutto bene? Tutto bene, mio hermano. C'è un forte temporale verso la Nurra. Speriamo che si rimanga lì. Speriamo di sì. Ecco qua. Sta saltando. È arrivata la data e l'ora dell'esame. Sì, il 21, vero? Sì signore, esci a vedere. Se sono qui, ecco qua. Alle 3 di sera. Natali, stai uscendo da un male che non ti dico. Io sento chiarissimo tutte le notizie, la sparatoria, la cosa. Ma è possibile che non riesci ad abbassare questa radio versione... Non è neanche studio, perché quello è studio, sono compresso. Aspetta un attimo. Ripeti? Ecco qua. È basso il microfono. Aspetta che abbassa ancora un po'. Ho spento il televisore. Bene va. Adesso sì, basta spegnere il televisore, ma a tutto volume proprio, anche se spegni la radio, io lo sento da qua. Le ultime parole famose, si sta avvicinando questo. Mi sa che mi tocca spegnere qualcosa. Si sta tutto oscurando, caro Natalino. Allora, il giorno 21 alle 3 di sera mi tocca l'esame. E dopo ho mangiato, quindi no, non andare a farti la pennichella. No, che no. Ci butto fuori a mia moglie e al cane. Spengo tutto qua. Potresti andare fuori tu, tua moglie, e lasciare il cane e farlo fare, lo fa lui l'esame, a vedere cosa succede. Avvedumi, a te rimane. Magari lo promuovono subito. E lui ne sa più di me. Ai. E così, caspita come cambia, questi temporali sono terribili. Ha cambiato, poco fa c'era luce, già tutto buio è diventato. C'è un ammasso nuvoloso qua sopra. Chissà se me le lascia in pace le antenne, vabbè che qua arriva dalla corrente. Ah, appena ho finito di fare qualcosa, ti arriva la scarica, te le immagini. Cosa ti volevo dire? Adesso mi manderanno la comunicazione dove mi devo collegare e tutto. Sì, tieni efficiente il computer per quello, tutto quanto, controlla. Controllati la telecamera, il microfono. Ah, mi ha torre squalomi. Alle 15.30 ce l'ha lui. Dopo di te. E sono le 15. Ehi, siete tra i primi quindi. Ok. A quell'ora siete i primi. Così te ne togli il dente e buonanotte al secchio. E vabbè, tra una cosa e l'altra, infatti durerà mezz'ora, ti faranno le domande, poi si assentano per darti il verdetto, capito? Così. Si sta avvicinando, mi sa, dai, mi sa sentire ogni tanto qualche scarica. Sì, si sta avvicinando. Vabbè Natali, ti saluto. Per precauzione chiudo, anche se questa antenna rimane collegata sempre, però non ci posso fare niente. Speriamo bene, diceva quello. E infatti, l'altra l'ho staccata già. Adesso stacco tutte le altre, non si sa mai. Mi spengo anche il computer, che non vorrei che mi fa. Ogni tanto me ne sta facendo fuori uno. Vabbè, ciao Nathalie, stammi bene. Buona serata anche a tutti quelli che sono ascolti. Ciao Gianfra, grazie per le quattro chiacchiere. Ci sentiamo alle prossime, al limite. Ok, ciao. Attenzione canale 10. Attenzione canale 10, brecco. L'antenna, quello lì, è l'antenna sua che fa. Ma rispetto al 118. Cazzino. Allora io mi disturbo il televisore, ma poco a poco, però il mio, poco a poco. Però proprio non la disturbo, c'ho proprio il televisore. Ma io c'ho che il deco deve essere attaccato. Capito? Gebe. Casino. In Germania tutti i tedeschi sono. capisce. C'è l'attimo che fa poco, un piccolo disturbo, ma adesso mentre che modulo non mi disturba più. Aspetta, mi gioco una prova, aspetta. Allora, aspetta, 2 secondi, diciamo la portante, l'importante è il tempo, vediamo. Allora. Adesso non sta disturbando, vedi? Allora, se io sgancio, rischiaccio. Guarda che se disturbi ti diventa lo schermo nero. Non fa più come prima, mi. Poi a un certo punto. Ah, ma faccio come tipo strisce, mi. Ti disturbo. Ma solo nel mio, eh. Poi troppo la mano, no, niente. Solo nel mio. Invece se attacco ancora di più me lo fa. Ma io so che se disturbi il digitale terrestre ti sparisce lo schermo, diventa nero. Non le deve fare strisce. Sparisce lo schermo direttamente se disturbi. Ora ha molta paura. Sto dicendo che qua schermo nero non vuole fare. Mi fa delle piccole delle cose a colori, ma poi sparisce, ha subito un motore non lo fa. Come schiaccio, come me lo portate, di schiaccio me lo fa, aspetta. Adesso non lo sta facendo. Adesso non lo sta facendo. Dai, poco a poco. Comunque ho risolto la storia del parcheggio, Milo. Cazzo, avevo paura di pigliare la macchina, sempre in prigione io. Aspetta che c'è un break, lo facciamo venire avanti. Avanti il break. Ciao Lupo Grigio, buonasera. Ciao Nicola, salutoni, Lupo Grigio, Luca da questa. Ma non è che ti sento questa volta, dai. Ma sei a casa? Arrivi in off, dai, no, di segnale. Ti ascolto benissimo. Tu mi ascolti, sì? Sì, avanti a Natali. Sì, anch'io lo sento meglio a Nicola. Bene, mi ascolti tu, Nicola. E K, però ti ascolto meglio. K, va bene, buon ascolto allora. Signor, sono preoccupato, lo sai, per quell'esame lì. Mi sono sistemato un computer, cioè sistemato, da poi con un portatile nuovo, abbastanza nuovo, la batteria non è che di un rimoto, però PC è nuovo, è un i3 di processore, l'ho resettato, tutto installato, un bijou. Anche io ce l'ho un portatile qua, bellino, anni, 5 anni, da 2018, no, 2018, 4 anni, ti posso dire che è abbastanza fluido, va bene, bello, anche se mi la giù bagaglio, va bene, capito, che perché, l'attenzione del Natalino del Fauno, senti quello che dite a me, che perché, è positivo, che bello, l'attenzione del Fauno. A proposito, in questi giorni che non c'ero, a Gianni chiamato l'avevano all'ospedale, nulla ne sai. Allora, mi stava raccontando Gianni che purtroppo non c'erano fondi per poterlo operare e gli avevano fatto saltare. Poi l'altro giorno mi ha detto che l'hanno richiamato, l'hanno messo in lista, l'hanno operato a dicembre. Come? Che lo operano a dicembre. Cazzo, bovaraccio, mamma mia. Così no. Avanti. E con l'apparecchio omologato, no, se attacchi qualche lineare magari. Ma basta tu che abbi l'omologato con 5 watt, non penso che gli fai niente alla centralina. No, il CB attaccalo direttamente alla batteria, non l'attaccare né all'accendisigari né solo ed esclusivamente alla batteria. Fagli passare un cavo, capito, che sia bello grosso, perché sennò avrai problemi, capito. All'accendisigari non lo attaccare il CB. Prego. Ecco qua, vale questo, boh. Ui. Ecco qua, vale, sì, Natalia. molto profumata. Sono assurdo, impeccabile. Ma già c'è quel tipo nero qua che dice se volevo la bamba. Oh, Luca. Adriano l'ha fermato un nero qua e gli ha detto se voleva la bamba. Addirittura, è stata la bamba. Anche in curva. Davvero, non so come funendi, mi ha raccontato, mi sono cominciato a risare. Immagino. Te li immagini se quello là fosse stato un poliziotto? Adesso vengo, invece di aspettare che glielo chiedi tu, vengono loro a dirti ce la vuoi. Fulla de conca, no, che viene un giro, mamma mia. Ma te li immagini se promuovono andemo bene, andemo. Ui ui. Luca. Sono dovuto andare a aprire la porta. E per quello io già stacco tutte le antenne subito. Luca. Via. Stavo fotando sto computer, se a posto, vediamo un po'. Mi chiede delle cose. Era a posto, era a posto, sarebbe contiamo tutta la sera. Le cucumeri. Poi stavo facendo il bagno nuovo, guarda lì, c'è due palle, che era da guarda mercoledì a finire, forse giovedì. Le coglioni, guarda. Due palle, vabbè, allora siamo più tranquilli, eh. Perché prendeva acqua, quella di giù, no, spegniamo, io un po' adesso mi ha problemi. Però adesso è a posto, allora questo è un rimuni. Cosa ti volevo dire, Lu? Le batterie dei computer portatili molto costano. No, sei bello. E dico, perché me ne volevo prendere un'altra. Già funziona quella che ho io, però per averne una di scorta, no, se me lo porto fuori, il PC, capito? Che magari mi serve. Ma che è modello, vedi quanto costa? Ma fai una trentina di euro. E me la compro una. È bello quel computer mio, ragazzi. È una brutta esperienza. Almeno c'ho quella di riserva. Se vado fuori magari mi serve il computer, no. E allora c'ho due batterie. Magari me ne vado fuori in macchina a fare i collegamenti, capito? Ehi. Magari serve il computer per il log, per un sacco di cose, no? E allora me lo porto appresso e così lo uso. C'è la camera di cazzo, si ferma. Sono sempre. Guarda un attimo che abbasso qua, scusa. Eia, si può fare anche così. Se c'hai due batterie, perché non so quanto dura la batteria, non penso più di un'ora, due ore, così. Così è. C'ho solo questa l'antenna attaccata, almeno cazzo non muore. Non si sa mai un bicchio temporale del Kaiser. Come? Sul tetto è l'antenna. Più di una ce n'è. Sì. Si staccano per errate che non si sa mai, capito? È meglio staccarla, o sai cala il fulmine vicino e sono cavoli acidi. Invece staccandole ti salvi gli apparecchi almeno. E sul tetto è meglio averla, l'antenna almeno puoi trasmettere come si deve. Logicamente se ci sono temporali uno la stacca e basta. Ma io col baracchino che ho in macchina, che c'ha 4 watt mi sembra, ho parlato tranquillamente da Platanona, sono tornato dalla parte di Porto Torres perché sono sceso dalla Bugirudi, non mi hanno perso un attimo, capito? Penso di sì, io... ce la facevo con l'antenna esterna, però il portatile, quanti watt c'ha il portatile? Almeno 5 watt dovrebbe avere. E 4 o 5 watt, dai. E vabbè, lì sei vicino. Comunque l'antenna esterna ci vuole, e magari su una base magnetica, attaccata al tetto della macchina, e dovresti parlare tranquillamente. E con la radio parli, sì. Lo so. Ma alla sezione dove sono iscritto io mi fanno i corsi. Basta farti un corso. Io adesso dovrò dare l'esame. Al prossimo... Al prossimo corso ti potrei iscrivere lì, fai il corso. Una sezione arie. È una sezione ARI e lì fanno i corsi dove sono iscritto io. Io ho fatto il corso, lo sto ancora facendo, adesso a breve dovrò dare l'esame, capito? No, la sezione è di Porto Torres, però hanno la sede qui a Sassari. Sì. Ah no, hai capito? Sì, è una licenza unica, è una patente unica. E poi c'è l'autorizzazione generale da chiedere, una volta che hai la patente il nominativo devi chiedere l'autorizzazione generale. Si chiama così adesso la licenza. Sì, che ci sono i portatili, perché no? Ci sono dei veicolari, da. Sono, più che altro. Però già ci sono. E fanno tutte le gambe HF. Ci sono dei veicolari che fanno HF 50 MHz, UHF e UHF anche. Quindi sono dei quadribanda. Infatti ti conviene fare il corso per le frequenze, poi dove devi andare c'è il piano delle frequenze, il band plane si chiama band plane, e ci sono le fette di frequenza dove un radioamatore può andare e trasmettere, capito? Sì signore. Gianni c'ha anche il mio, fatelo dare, già te lo dà, digli che ti ho autorizzato io, non c'è problema. Digli, mi dai il numero di Natalino per cortesia, che lo devo telefonare. No, negativo, quest'anno lo diamo online, via computer, capito? È più facile perché l'esame di Cagliari quando si faceva in presenza era molto ma molto più difficile, io l'ho fatto e lo so, perché sono 60 domande, c'è il compito da svolgere, perché ti danno un circuito e lo devi svolgere, è molto difficile quello di persona. Invece è più facilitato, penso io, quello online, perché ti fanno poche domande e ti dicono se sei passato o no. E questo te lo saprò dire perché lo chiedo. Dopo il nostro penso che inizi un altro corso. Capito? Al limite verrò anche io lì. Verrò, anche se riesco a prendere la patente, verrò lo stesso. Ok Nicola, non c'è problema per quello. Comunque telefona a Gianni e diglielo di darti il mio numero, così mi puoi chiamare e ne parliamo via filo. Ciao ciao Nicola, le prossime. E poi due, non ci sente più. Cosa Luca? Dove è sparito? Non sente più. Forse gli sta esaurendo la batteria, sta chiudendo perché c'ha incombenze familiari adesso. Ehi, ma queste batterie lasciate voi trovo, ci vogliono diventare ore, Si mette un veicolare di quelli piccolini, ci sono, la pegancia trova l'alimentatore, il segnale rimane sempre stabile, è bello, tutto il giorno, muovo la batteria. Capito? Io già lo sentivo perché siamo vicini. Però sicuramente se tu non lo sentivi, evidentemente si gli stava scaricando la batteria, io non ho notato la differenza, perché c'è anche la radio bassa a lui. Ma sono avvisato. E vabbè. Già, quando mi telefona già glielo dico in verticale io le cose, cioè mi affilo, là. Oppure, come si chiama? Oppure Kurt teme i tuoni. Stava abbaiando poco fa. Gli dimisi. Dicevo, prima della rivista, no? Adesso sì. Una immaginata di Duni Anzura e stava abbaiando poverino. Lo so. Tra me siamo in Emilia Eva, dove c'è tutto un blocco lì, dove c'è il l'avvolgimento, perché gli ha messo cosa Fabrizio? Gli ha messo come si chiama? Il quello che sta di. Che si restringe, non mi ricordo come si chiama. Il termo restringente. La mia mi si viene a fare deva l'antenna si mi ne ci su chi su Carrida di Rubiele era verde come ne è sceso in terra il capo me ne è uscito quello dal PL c'avevo tutta la calza nera ce l'ho dovuto buttare quel capo posso immaginare. Il mio era un po' così quando ho problemi l'antenna il PL era tutto nero di usi, ho capito. In più c'era tutto il mocchettone staccato dove è tolta CPL, proprio marcio, eh. Allora ha rifatto tutto nuovo, ha fatto un capolavoro, ha fatto. Solo lui lo poteva fare, uno. Guarda, questo non ci riusciva a farla, ci vogliono gli attrezzi adatti, i macchinari adatti per farlo. E lui ha fatto veramente un ottimo lavoro. L'antenna è rinata. Sì, me lo posso immaginare, guarda, è un cranio Fabrizio, c'ha le mani d'oro. Sì, confermo. Confermo. Vabbè. Adesso mi devo fare una multibanda, mi devo fare. Ho già il toroide già pronto e la scatola per mettercelo. Cioè, va bene, dai, andate in faccia, almeno sei tranquillo e se ti trovano le radio ti ci mettono la faccia in culo. E infatti quando sei in regola, dopo che ci vai o no in quelle bande non ha importanza. A me mi piace più la 27, la verità si dica. Vabbè, comunque puoi detenere le radio, no? Poi mi posso mettere un bibanda in macchina e posso parlare, c'ho anche l'antenna per le HF della macchina, una multibanda, mi devo fare solo la base magnetica perché ci vuole una di quelle che abbia l'attacco a PL, quella che ho invece gli ho attaccato quella per la 27, quella non la smonto, la lascio così. Vabbè, interessante che funzioni pure. E vabbè, allora vediamo un po' l'AN, ecco questo resta qua. 3264, adesso ci provo. Mi manca la LAN e basta, questo dell'altro computer. E una c'è la battaglia, vabbè. Non è un missile, però gli va bene, dai. Poi appena posso, che ho qualche studio mi compro un i7 di processore, con l'i7 di processore. 16 giga di RAM e un terabyte di SSD. Cazzo, l'SSD l'ho messo in questo grande. Cazzo, un siluro, eh. Beh, ci da bene. Ho sbagliato solo a fare la formattazione normale, perché con l'SSD per poter mettere gli altri dischi la devi fare in un altro modo e non ne sapevo io. Oh, bene, la grande. E adesso lo lascio così per il momento. Poi quando do l'esame mi cavo tutto in terra e lo posso a nuvo d'ora. Eh beh, certo. Certo che sì. Allora, adesso non mi conviene, che mi serve la connessione internet e tutto quanto. E poi questo, lo schermo è bello, grande. Volendo anche col portatile posso farlo. Il portatile c'ha la telecamera, quindi. Il potabile. Cazzo, peccato che non si può attaccare alla macchina il portatile per caricarlo. Non va 12 volte, no. No. Bella fregaruta. Aspetta, in macchina. Sì, attaccalo a un accendisigari per esempio, così con la batteria, e così almeno ti carica anche la batteria. Capito? Ma portatile cosa? Notebook o radio? Il computer portatile, quello che c'ho io, una HP. Solo che non lo so a quanti volte va. Questo attacco che ho io è a 220. Ma 19 volte, 19,5, 19,6, comunque 19 volte. Poi non ho alimentato, si attacca la macchina e poi con il riduttore, cioè lo spinotto, non puoi attaccare tranquillamente. Ah, lo vendono l'alimentatore per la macchina? Certo che sì, si attacca la CD sigari. Ah, di lusso. Adesso lo cerco. E così non ho bisogno di nulla. L'attacca la accendisigari della macchina e due andendi. C'avevo la borsa bella, cazzo, ma l'ho buttata via. A te l'immagine per il portatile. Scoperto che si incontra. Io poi non andata via. È piccolino sto alimentatore. Dopo ti mando la foto, adesso non lo so dove l'ho messo io. Ce l'ho uno io. Che casino. E quelli che vanno a 12 volte? Quello mio vabbè non funziona. Cioè non funziona, non ho staccato il filo, non c'è il vivo. E non va più. E che filo ne hai staccato? Il filo per attaccare gli spinotti in realtà lì. Ma l'hai staccato direttamente dall'alimentatore o c'è un pezzo di filo? No, c'era proprio il filo per usarmi tutti i cosi, capito? Quello si attacca alla macchina, ok? Il filo mi serviva per attaccarlo al quello a 19, per usarmi tutti quando mai mi vedono un PC che mai non c'è il caricatore e mi uso gli spinotti, a tanti spinotti, no? Sì, ho capito. E vabbè, io me lo compro quello che... Così c'ho quello per attaccarlo in casa e quello per attaccarlo nella macchina. Anche voi si potreste fare. E ce l'ho quello per caricarlo a 220. Vabbè, però stavo di dire se non funziona. Che bengare, positivo. Che bello di attenzione, tranquillo, senti qua. Infatti la wifi, anche il mio c'ha wifi e poi se lui attacca alla LAN metti un cavo di rete e via. Si può fare anche così, ma la wifi va di più, ci va di più, lo puoi spostare, vuoi un cavo di rete, se lo tieni fisso lì va bene, lo puoi anche fare. Infatti. Cosa non c'hai? Famina. Adesso vediamo un po' cosa mangiare dopo. Per cena, vedi, muso un po', muso. Che perché? Attenzione, il Natalino va al favore, senti. Stavano, hanno coperto le tracce, perché hanno spostato tanto il fantasma. il basamento, no, per mettere il piatto doccia, cazzo non si ne andareva, se ne sono andati a lì 2 metri. Beh, dobbiamo provare lo scarico, no? Poi ci vediamo domani. Se mai sono altre scuse. Che se infatti non si può punire la doccia o coso o scaldabagno. Non si vuole. Infatti l'ha spostato, lo mette praticamente, mi risulta, sotto il lavandino. Adesso devo scendere da qui come comprare, anche la secchia che c'era prima non ci sta più, perché ha messo lo scaldabagno lì, ci sono i tubi, non ci sta più. Devo comprare il mobiletto, quello completo con il lavandino. E poi il box doccia. E quella c'è una spesa nostra, ma c'è il resto tutta la parte del comune. Ehi, fa. Che vecchia, bello. Bello, caro, che la vada qui, la vita, che è la vita. Che vecchia, bello. Ora chiamo. Nessuno la verità. Poco fa, ma ho sentito uno che fischiava. Lui è al telefono. Che avanti. Cosa? No, sei in basso, non si capisce niente dove dici. Sei Catanzaro? Sono a Zacchena. Con tutti i droni e i pesci. fa sentare, dai, ci sentiamo alle prossime. Scusa. Sì, ciao, dai. È arrivato forte, ma la modulazione...